Tiziana Mascia, coordinatrice nazionale della segreteria della Fondazione Comunista. Tu sei andata a vedere lo stato dei feriti del blitz di sabato notte. Sì. Come li hai trovati? Pesti, massacrati di botte. C'erano ragazze, ragazzine, giovanissimi. Siccome l'ufficio stampa del ministro degli interni ha dichiarato che quelli sarebbero stati feriti del pomeriggio e che quindi loro semplicemente li stavano curando, li abbiamo chiesto ai primari e abbiamo avuto la conferma. Tutti con trauma cranico, milza spappolata, queste sono ferite recenti. È stata una cosa che mi ha colpito molto, forse perché abbiamo vissuto per una settimana in stato d'assedio. Vedere uno smantellamento della zona rossa così veloce è qualcosa che non è veramente... Che mi ha sorpreso e che non mi aspettavo. C'è un sentimento veramente quasi di felicità per quello che la città torna ad essere. È stato impressionante. Noi viviamo in un carrugio del centro, siamo scesi, la città è di nuovo piena di gente, tutti i negozi sono di nuovo aperti. È come appunto aver vissuto in una sorta di lager. Che far luce su quel che è accaduto significa anche chiarire in che cosa consiste la rete logistica di protezione, di collusione, di complicità di cui godono all'interno del movimento e all'interno di certe frange dell'ultrasinistra i cosiddetti black bloc. E Dio non voglia, perché chi ha scagliato parole pesanti come pietre dovrebbe poi, se ce l'ha, fare i conti con la propria coscienza. Io non voglio che dalle indagini e dalle commissioni non emerga anche che le responsabilità di collusione, di protezione e di copertura non sono soltanto di gruppi extraparlamentari, ma anche di qualche collega che siede sui banchi del Parlamento repubblicano. E poi basta, poi si hanno trasferito in una camionetta in questa questura di Bolzaneto. Chi erano? Polizia? Era la polizia e poi siamo arrivati a Bolzaneto, siamo rimasti un po' e ci hanno lasciato un po' con le braccia alzate su questa, lì dove c'era il campo da tennis, appoggiati alla rete. E ci ha lasciato un po' lì con le braccia alzate, appunto anche gente con le mani ingessate, eccetera. E però da dentro c'erano già delle, lì all'ingresso c'erano delle ragazze che piangevano e poi ci hanno portato dentro e ci hanno chiuso in questa cella e saranno stati, non so, sei metri per sei, una cosa così, che sentivamo i rumori e le urla e queste cose dei ragazzi. A parte gli insulti pesantissimi. A Bolzaneto, nella notte tra sabato e domenica, la situazione era tutto sommato normale. Questo è quanto ha riferito davanti alla commissione di indagine il ministro della giustizia Castelli. E se episodi condannati in bagno, quando mi ha portato in bagno questa poliziotta, tenendomi la testa altezza ginocchia, mi ha portato fino in bagno mentre gli altri mi davano calci e insulti e cose. Quindi a quel punto sono arrivata in bagno, che l'ultima cosa a cui pensavo era fare la pipì. Mi sono messa a piangere, eccetera. Lei, vabbè, mi ha detto che mi avrebbe spaccato la faccia se non mi muovevo. 10 uomini e una donna faccia al muro con le gambe divaricate. Ho chiesto spiegazioni e mi hanno detto, continua Castelli, che era così per evitare che gli uomini aggredissero la donna. L'unico giovane con cui ho parlato, dice Castelli, riferendosi ancora a Bolzaneto, era un ragazzo. Non era ferito, era solo un po' abbacchiato. Il ministro della giustizia ha letto ai commissari la del giro e poi che ne avevano ammazzato uno, ma avrebbero dovuto ammazzarne almeno 100. Domenica siamo stati a Bolzaneto, ma comunque marginali. E poi, ciliegina sulla torta, Castelli fa un esempio per essere più chiaro. Mi hanno raccontato che molti ragazzi sono rimasti in piedi a Bolzaneto per ore, ma anch'io ho lavorato per 30 anni in fabbrica e rimanevo in piedi ore intere, lì nello studio. Al carcere di Vercelli. Tutto questo però, la cosa più brutta era il freddo e in queste due notti. Infatti eravamo tutte una addosso all'altra per scaldarci e con queste, prima di entrare ci hanno fatto una croce sulla guancia e la croce era rossa se venivamo dalla scuola e era verde non so in quale altro caso. È passato questo poliziotto con una maschera di plastica di carnevale in faccia e non so quale tipo di utilità poteva avere, però battendo col manganello alle porte, poi è andato nell'ultima, erano tre cellette dove c'erano quattro ragazzi e abbiamo sentito un po' di cose brutte e non so, un sacco di rumori e di grida, di botte, si chiamano botte, sì. E, eccetera. E questo anche quando eravamo solo noi donne, tutte insieme, continuavamo a sentire vetri che si rompevano, rumori fortissimi e punto botte, quando chiedevamo a loro di smetterla, per favore, che non ce la facevamo più, di smettere di picchiare i nostri amici, la poliziotta, che tra l'altro era quella più umana lì dentro, diceva che adesso non le avrebbero picchiati più, non che non l'avevano fatto.